Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Guerra del Pacifico, 1945. Storia di un comandante, di una conquista e di una donna. Ricordi, comandante? Sì, qualcosa il comandante ricorda, ma se si ferma a pensare ricorda anche troppo ed è un cancro che lo rode. Per questo cerca di non farlo, ma ci sono dei giorni nei quali non riesce a tenere il passato fuori dalla stanza dove dipinge. Succede soprattutto di notte e allora la tela resta tristemente bianca sul cavalletto e la mano è come morta, posata sulla gamba. Poi quando tutto è passato e ritorna al presente, deve chinarsi a raccogliere il pennello caduto sul pavimento. Come si chiamava? Beh, aveva tanti nomi. In antico era Tong King. Poi i cinesi lo conquistarono e lo chiamarono il regno di Nam Viet. Quando ci arrivò lui con la legione, si chiamava Tonkin. È sempre stata una terra di conquista: cinesi, giapponesi, portoghesi, olandesi, inglesi, francesi. No, volevo sapere come si chiamava quella ragazza. Quella ragazza. Se il comandante chiude gli occhi, rivede il suo viso. E ne sono passati di anni, forse secoli, chissà. Quella ragazza si chiamava T. E fu proprio lui, il comandante, ad arrestarla. Suo marito si chiamava Guyé. Suo marito progettava attentati e bisognava arrestarlo per forza. Il comandante ordinò ai suoi legionari di abbattere la porta e la vide subito nella lama di luce che entrava dalla porta scardinata, seduta sul pavimento in un angolo della stanza. Lo fissava con tanto odio che quello sguardo lui non l'ha mai dimenticato. Poi accadde quello che accadde e fu proprio lei a spiegargli che il suo paese era sempre stato invaso, ma mai conquistato, come non lo avevano conquistato i francesi con la loro leggendaria legione straniera. E fu lei a raccontargli la storia dei pioli di Bagdang. E ancora il pennello finisce sul pavimento e ancora la voce delicata di T entra nella stanza del comandante per raccontare: il nostro popolo stava per essere sopraffatto dall'esercito mongolo. Le sue navi cariche di mille e mille armati erano alle foci del fiume Bagdang e presto lo avrebbero risalito e sarebbero arrivate al villaggio. Ma la bassa marea le stava trattenendo al largo. I nostri equipaggi e i nostri compagni ne approfittarono per infiggere dei grossi pioli sul fondo del fiume. L'acqua del mare, salendo, li avrebbe poi coperti. Lavorarono tutta la notte, fu un lavoro duro e ben fatto, e al mattino, con l'alta marea, il mongolo invasore non sospettò che nel letto del fiume si nascondesse la più grave delle insidie per le sue navi. Queste, ignare, risalirono baldanzose la corrente, certo ormai della vittoria finale. Quando raggiunsero il luogo nel quale erano stati infissi i pioli, era pomeriggio inoltrato, e i nostri compagni fecero di tutto per trattenerle lì. Si mostrarono sulla riva, urlarono insulti, lanciarono sassi e pietre, che al più provocavano qualche inutile foro nelle vele, scagliarono le loro innocue canne di bambù contro le fiancate. Le funi che collegavano da riva inutilmente si impigliavano nelle navi. A quella vista il gran mongolo fece fermare la flotta per ridere e divertirsi agli inutili sforzi del suo nemico e beffeggiarlo, fino a quando il mare, ritirandosi per la bassa marea, fece affiorare i pioli infissi sul fondo del fiume. Le navi vi si incastrarono, non riuscirono più a governare e ne furono prigioniere. Alcuni pioli più aguzzi e robusti penetrarono nelle stive e allora i nostri compagni, inaspettati, salirono a bordo e facilmente uccisero i soldati invasori, impreparati a un nuovo tipo di battaglia, alle armi dei nostri compagni e ai nuovi combattenti. È una bella storia, comandante. Sì, era una bella storia. Anche T era bella, molto. E lui era il comandante. E adesso, Montombraro, 14 gennaio 2003.